ovvio che questo libro è molto ispirato alla Sardegna. Anche quello è un mondo molto maschile, però ci sono delle ragazze che da giovani seguono i genitori a pescare. È una vita durissima. Però ho conosciuto, insomma, di queste sirenette che stanno sott'acqua 2 minuti, 3 minuti, insomma, è il loro gioco, ma è anche una specie di talento che hanno. A un certo momento lei dice: chi ti piace nella vita? Dice: mi piace sapere chissà da che parte tira il vento. Quindi per questo, se nella metropoli valgono certe abilità, per lei i valori sono molto diversi. Lei ama le persone che sanno se è maestrale, scirocco, libeccio, eccetera. Quindi è una sirenetta molto combattiva, e in questo caso però il finale è più aperto, ma non si può escludere, insomma, che dentro abbia la stessa forza che muove Pantera, forse Pantera in modo più inconscio, ma è una piccola donna molto coraggiosa. La cosa che fa è una cosa di grande coraggio, di andare in mezzo al mare a pescare. Sono sicuramente due personaggi femminili molto forti, molto coraggiosi, ce ne sono tanti nei tuoi libri, nei tuoi racconti. Mi è stupito aver sentito in un'intervista che tu hai dichiarato all'inizio di un romanzo, di una storia, di un racconto: non so mai che sesso avrà il mio protagonista, cioè non lo immagino né uomo né donna, poi viene dopo, viene da sé. Nei romanzi sì, nei racconti no. Nei racconti devo sapere se parto con una sirena o con un tritone. No, è così, è che nei romanzi spesso io non ho poi sempre un protagonista principale. Io parto una storia, può essere che poi a un certo punto mi accorga che, come in Margherita Dolce Vita, che Margherita Dolce Vita sarà la protagonista assoluta, e che in Elianto Carmilla, ad esempio, che è una fascinosa diavoletta, mi batta sulla spalla e dice: voglio più spazio, voglio diventare più importante. Però specie nei romanzi corali, adesso li chiamo così, insomma, io a volte faccio dei romanzi abbondanti di personaggi, anche troppo, non decido subito il chi sarà, quanto peso avrà. La prova forse è l'ultimo libro, l'ultimo romanzo, che è Di tutte le ricchezze, dove io non sapevo, anche se la voce narrante è il professore, in realtà poi il personaggio femminile, Michel, è diventato molto più presente di quanto immaginavo, tanto che per alcuni appunto hanno detto: io mi ricordo il libro perché la figura che mi ha affascinato è Michel e non il professore. Ecco, questo non lo calcolo prima, qualche volta succede, c'è una specie di sortilegio. Quando si fa il nome di Stefano Benni si pensa alla comicità, all'ironia. In realtà nei tuoi libri ci sono tante corde, vengono toccate tante corde, dal dolore alla sofferenza, al lato oscuro appunto della personalità umana. Però insomma, ecco, forse l'ironia è la cifra che sembra definirti di più. E così è la lente attraverso cui guardi il mondo anche nella tua vita quotidiana, oltre che nella scrittura. Sì. Sì, credo che in qualche modo il senso dell'umorismo mi appartenga anche nella vita. Ma come hai detto tu, quando si pensa a Stefano Benni si pensa alla parola comico, se uno non ha voglia di studiarlo, insomma, se vuol dare una definizione un po' superficiale. A me non dispiace la parola comico, però non sono un comico puro. E quindi nella vita mi aiuta molto il senso dell'umorismo, ma non mi impedisce a volte di essere molto triste, perché il senso dell'umorismo molto spesso è legato a una concezione molto malinconica della vita. E se noi guardiamo i comici, le foto dei comici, dei grandi attori comici, ad esempio Chaplin o Totò o Stan Leone, ci accorgiamo con un certo stupore che quasi sempre hanno un'espressione triste. E se andiamo a vedere le loro biografie, troviamo grandi gioie, grandi trionfi, ma anche una tristezza di fondo, perché appunto il comico è uno attento al mondo. Allora, se tieni aperti gli occhi sul mondo, non puoi vedere soltanto le cose belle, vedi anche le cose brutte. Ecco. Questo i lettori l'hanno capito, una certa accademia non lo capisce, allora è più comodo fare ancora la distinzione tra comico, tragico, che non ha assolutamente senso. Si tratta di letteratura e quindi

vediamo solamente questa fotina, è un'esibizione, guardatemi. No, questo veramente non mi interessa molto. Sappiamo bene che Stefano Benni non ama molto le interviste, soprattutto quelle televisive, ora non so quelle radiofoniche. Tu ti fai conoscere attraverso i libri, attraverso quello che scrivi. Cos'è che non ti piace nel momento in cui racconti di te, per esempio, in un'intervista come questa? Allora, la radio e la televisione sono diverse, ma in realtà poi io di interviste ne ho date tante. Le do quasi sempre per mail. Quello che mi dà fastidio è la fretta. Cioè il fatto che per spiegare un libro dove io ho impiegato 3 anni per scrivere questo libro, l'idea che poi in 10 minuti devo parlare di tutto a me terrorizza. Io non vorrei sprecare le parole, poi qualche volta le spreco anch'io. Quindi ho una certa cautela, preferisco parlare per mail, eccetera. La radio già dà più tempo. La televisione ne dà pochissimo, quindi io cerco di andarci il meno possibile. Però se qualcuno mi dice se vuoi parlare un'ora dei tuoi libri, io gli direi di sì. Magari ammorberei centinaia di spettatori. Insomma, il rapporto col pubblico ti piace? Ma faccio teatro. È una leggenda anche quella di dire che sono schivo. Se faccio teatro, cioè proprio lo faccio con una bella dose di esibizionismo. Mi piacciono gli applausi. Però in teatro comunque faccio le prove, mi preparo bene, cioè dico delle cose precise. Ecco, la mancanza di precisione e la fretta delle interviste televisive, dei dibattiti, delle cose, mi fa paura. Quello che possiamo prometterti è che questa intervista andrà in onda integrale su Radio 24, quindi non ci saranno tagli, almeno quelle parole che ci siamo scambiati saranno esattamente quelle che ci siamo detti. Grazie Stefano Benni, ora in libreria con Pantera, pubblicato da Feltrinelli. È arrivato il momento di parlare del Giro d'Italia in 80 librerie, l'iniziativa di letteratura rinnovabile di cui vi abbiamo parlato già un paio di settimane fa. La gara, la corsa è partita, lo sapete, ci sono scrittori, librai, editori, bibliotecari, ma anche insomma lettori comuni che prendono la bicicletta e fanno un percorso da una città ad un'altra, dove poi vengono organizzate una serie di iniziative editoriali. Ieri la gara è arrivata a Milano con lo scrittore Paolo Cognetti. Di Paolo Cognetti, insomma, avevamo già parlato in passato al Cacciatore di Libri, con Sofia si veste sempre di nero, per esempio, ma da poco pubblicato anche un libro, una sorta di guida gastronomica newyorkese. Paolo, come mai, insomma, tu passi da libri, diciamo, intensi come Sofia si veste sempre di nero, addirittura a una guida gastronomica? Ti sei fatto prendere anche tu dalla mania di MasterChef? No, ma non è affatto un libro leggero, perché poi io sono incapace di leggerezza e ironia, anzi mi piacerebbe averle in dono. Il cibo è una chiave per girare una città fondamentale, nel senso che vai dritto al rapporto tra le persone, tra gli abitanti e il loro territorio, ma anche tra gli abitanti e le loro radici, nel caso di New York. Tu hai partecipato appunto a questo particolare Giro d'Italia in bicicletta con appunto altri scrittori, l'avevamo detto prima, editori, bibliotecari, eccetera. Perché hai deciso di prendere parte a questa strana e insolita gara? Ma perché lo scrittore chiuso nella sua stanzetta, così, tra i suoi demoni, mi ha un po' stufato. Allora, da buon emingueiano sono convinto che lo scrittore debba anche dimostrare un po' di prestanza fisica. Io non sono un gran ciclista, nel senso che non sono tanto abituato ad andare in bici, però sono un montanaro camminatore, quindi un po' di gambe e di polmone ce l'avevo per fare questi 30 chilometri da Pavia a Milano. E ce l'hai fatta. Grazie Paolo Cognetti per essere stato con noi. Vi ricordo che naturalmente il Giro d'Italia in 80 librerie continua. La prossima tappa sarà a Cremona. Comunque domani, domenica, ai Frigoriferi Milanesi a Milano ci sarà un'anteprima particolare, perché la scrittrice italo-americana Camilla Trinchieri presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo Verso domani, pubblicato da Marcos y Marcos. Tutte le tappe, se volete partecipare, naturalmente si trovano su letteraturarinnovabile.com. E prima di chiudere vi ricordo che questa sera è stato consegnato a Udine il premio internazionale, il premio letterario intitolato a Tiziano Terzani, a 10 anni dalla sua scomparsa. E sono stati premiati uno scrittore di riferimento della letteratura contemporanea internazionale, ossia il pakistano Mohsin Hamid, autore di Come diventare ricchi e sfondati nell'Asia emergente, pubblicato da Einaudi. Ex aequo con Hamid, la giuria ha conferito il premio Terzani anche al poeta friulano Pierluigi Cappello, autore di Questa libertà, RCS Libri. Grazie in regia a Fabio Cantadori, vi ricordo che ci trovate su Twitter come Ale Tedina, su Facebook e tutte le vecchie puntate su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.